Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, in questa rovente estate politica continua a tenere banco il tema della giustizia, un tema per la verità presente nel dibattito italiano da molti, moltissimi, forse troppi anni. Allora vi segnalo a questo proposito un libro originale, curioso, che ci permette di scoprire il ruolo e il lavoro che effettivamente svolgono i pubblici ministeri attraverso cinque storie esemplari raccontate da Lionello Mancini, giornalista, è stato anche vice direttore di questa radio. Lì il suo libro si intitola L'onere della toga, Rizzoli, 284 pagine, 11 euro. Mancini, dicevo, un giornalista specializzato nel raccontare il mondo della giustizia, come ha fatto in tanti servizi e reportage nella sua lunga carriera, e ha molto rispetto Mancini per la giustizia, per i magistrati, ma questo libro che ci offre è uno spaccato autentico obiettivo della vita dei magistrati, cinque dei quali si sono prestati per farsi mettere sotto il suo microscopio, e i loro nomi sono Lucia Musti, Marco Ghezzi, Fabio Di Vizi, Alessandra Dolci, Cuno Jacob Tarfusser. Forse non sono nomi notissimi al grande pubblico, però hanno gestito tutti dei casi molto importanti di cui l'opinione pubblica certamente si ricorda. Allora sentiamo che cosa ha scoperto Mancini dalla loro frequentazione. Buongiorno a Lionello Mancini. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Lionello Mancini, tu cominci il tuo libro con una curiosa ammissione, quella di provare una misteriosa attrazione per i pubblici ministeri. Come giustifichi questo strano sentimento che non credo tutti condividano? In realtà la misteriosa attrazione non è tanto per i pubblici ministeri quanto per questo lavoro che loro svolgono e che indubbiamente ha sempre, cioè io ho sempre associato questa figura a dei momenti di grande, come dire, emotività anche sociale. Loro hanno firmato negli anni, ti sto parlando anche degli anni 70-80, insomma, hanno firmato quelle cose che hanno, in certi momenti, quei documenti che hanno scosso anche il paese, insomma, ecco, sono loro che li firmano. Quindi quello che c'era dietro queste firme è quello che mi ha sempre, diciamo così, attratto, nel senso di incuriosito, insomma, non ho mai preteso di fare l'inquirente né l'inquisitore. Ecco. A un certo punto tu parli della obbligatorietà dell'azione penale, che naturalmente è alla base del lavoro dei pubblici ministeri e dei magistrati, e scrivi che essa, questa obbligatorietà, andrebbe esercitata da persone, come scrivi tu, equilibrate, preparate, rigorose e specchiate. Ecco, siamo tranquilli che tutti siano rispondenti a questi requisiti, e quali sono gli anticorpi perché questi requisiti si rafforzino nella magistratura? Ma indubbiamente non siamo tranquilli in senso assoluto, perché anche dentro le toghe ci sono delle persone, così come ci sono delle persone più o meno equilibrate, corrette, trasparenti nelle varie professioni o nei vari incarichi istituzionali, beh, insomma anche lì troviamo persone che a volte diciamo eccedono, o più facilmente, secondo me e per la mia esperienza, è più facile che queste persone sbaglino, perché capita a tutti di sbagliare, ma che questo errore non venga, come dire, fermato in tempo, e cioè che a un certo momento, questo può accadere per esempio quando un pubblico ministero persegue una sua idea, un suo teorema, e prove o non prove che riesca a mettere insieme, il processo davanti lo stesso non si ferma. Certo, quando uno di questi pubblici ministeri, questo per dire un errore che capita a delle persone che in fondo sono poi delle persone un po' insicure, perché l'idea di avere torto è una cosa che li agita troppo. Ci sono poi anche stati dei casi di persone che, nonostante avessero in mano questo enorme potere, sono poi risultate per esempio corrotte, oppure che abbiano utilizzato questa loro posizione per dei fini personali. Però devo dire che sui 2000 e passa pubblici ministeri che ci sono, questi sono, diciamo, sicuramente non è un sistema malato, come qualcuno secondo me vorrebbe far credere. Ci sono delle persone che dovrebbero essere un po' più consapevoli dell'enorme potere che esercitano. Frugare nelle vite degli altri è veramente un potere enorme, e io penso che possa in qualche caso forse anche prendere la mano. Fra questi 2000, come hai scelto i 5 di cui parli nel tuo libro? Beh, intanto una prima scrematura grossa c'è del fatto che io ne conoscerò una cinquantina, e già, diciamo. Tuttavia, adesso a parte gli scherzi, io ho voluto scegliere delle figure non note. Ovviamente non è che non abbia avuto rapporti o frequentazioni o conoscenza o anche amicizia con persone, diciamo, quotidianamente alla ribalta delle cronache. Beh, basta pensare al procuratore di Roma che mi ha scritto la prefazione al libro. Però ecco, io proprio ho voluto scegliere delle figure poco note o note localmente, magari accostandole a delle indagini un po' più note, e questo perché l'ho fatto? Proprio per cercare quei casi in cui l'indagine entra nella vita della persona pubblico ministero in qualche modo condizionandola, stravolgendola a diversi livelli. In certi casi un pubblico ministero di turno si ritrova magari in una piccola procura ad avere un'indagine che per mesi lo tiene impegnato veramente giorno e notte, specie quando, come nel primo episodio del mio libro, si tratta per esempio di trovare una persona persa, una persona rapita. Ci sono poi delle altre circostanze per cui la vita viene stravolta, perché per esempio improvvisamente il fatto di fare un'indagine comporta, e di diventare improvvisamente noti per quell'indagine, il fatto di essere messi sotto scorta. Questo per alcuni è andato avanti per qualche mese, per qualcuno qualche anno, e per qualcuno da 20 anni è tuttora così. Allora, in questo senso io ho voluto fare degli esempi di indagini diverse tra loro, molto diverse, perché sono indagini che davvero possono capitare a un, certo non capiteranno a un pubblico ministero di primissima nomina, perché ci sono dei meccanismi che tendono a evitare questo, però anche uno che in una procura normale, adesso non so, mi viene in mente appunto come può essere Forlì, piuttosto che una piccola città tranquilla, beh, improvvisamente si trova invece a dover fare i conti con una cosa particolarmente complessa o pericolosa o di cui si occupano i media. Ecco che riscatta l'altro meccanismo, cioè quello della pressione dei media, per non dire dell'opinione pubblica. Ecco, davanti a queste cose le persone che fanno quel lavoro lì devono veramente dimostrare di essere delle persone equilibrate, solide, fredde, tranquille, e anche, come dicevo all'inizio, capace di fermarsi se il loro lavoro non li porta ad avere le prove che li porteranno. La loro verifica è una: il fatto che vincano i processi. Se li perdono vuol dire che hanno lavorato male. Ecco, c'è anche una figura di magistrato che tu chiami il grande semplificatore, un magistrato che ha messo al centro la sua attività il cittadino, che ha sfrondato molto le intercettazioni telefoniche, che ha ridato efficienza alla giustizia civile nella sua città. Insomma, cambiare si può anche nella magistratura italiana? Ma io sinceramente, guarda, ora non so cosa pensare, perché questo esperimento, che si riferisce appunto al capitolo di Cuno Tarfusser, che a Bolzano ha sperimentato, cioè non ha teorizzato, ha sperimentato per alcuni anni, finché è rimasto procuratore di Bolzano, delle modalità di organizzazione dell'ufficio, di motivazione delle persone, di utilizzo delle persone a seconda delle loro capacità e della loro intelligenza e delle loro passioni, tale per cui, come fa ogni bravo manager di qualunque ufficio un po' complicato, tale da rendere più efficiente il lavoro del suo ufficio e del suo personale, spendendo la metà di quello che spendeva prima. Quello è stato un momento, siamo intorno al 2004, al 2008, 2009, in cui effettivamente la magistratura avrebbe potuto, se avesse colto l'importanza e la profondità di questa trasformazione, avrebbe potuto veramente autoriformarsi sotto la guida ovviamente dei suoi due centri storici e istituzionali di potere, che sono il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno, e il Ministero della Giustizia, che è quello che sgancia i soldi. Invece purtroppo io questa la considero un'occasione persa, perché da lì è nato un progetto che addirittura utilizzava per la prima volta dei fondi europei, quindi senza costi per lo Stato italiano, e questo progetto, che doveva essere condotto dal Ministero e anche a braccetto col Consiglio Superiore della Magistratura, si è accozzato contro la nostra solita burocrazia, contro delle opposizioni più o meno sotterranee anche nella categoria dei magistrati, finché, se posso usare il termine preciso che è stato usato in una riunione di magistrati, culo tarfus, anziché essere preso come un riferimento, era diventato un rompicoglioni, e cioè uno che batteva su queste cose, in realtà pensando alla sua carriera, eccetera. Fatto sta che adesso è all'AIA, ci starà per altri 4 anni o 5 come giudice internazionale della Corte Penale Internazionale, e però quel ruolo che avrebbe potuto e voluto svolgere in Italia non gliel'ha fatto svolgere. E l'Italia ha perso un'occasione. Grazie a Lionello Mancini, autore dell'Onere della Toga. Buona domenica. Grazie. Una lettura complementare, quasi indispensabile a quella di Mancini, è il libro del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Bietti. La sua ultima fatica si intitola Facciamo giustizia, istruzioni per l'uso del sistema giudiziario, pubblicato all'Università Bocconi, 166 pagine, 16 euro. Questo è un passo avanti dell'autore rispetto al precedente libro, La fatica dei giusti, di cui avevamo pure parlato in questa trasmissione. In quel libro Bietti aveva voluto sfatare molti miti legati alla versione secondo la quale la magistratura sia la causa fondante del degrado della giustizia. Qui esamina le cose che possono essere fatte per fare funzionare la giustizia, spesso a costo zero, con un taglio non ideologico ma operativo, e si parla quindi di temi quotidiani sollevati o spesso pagati dai cittadini, che sono i primi a soffrire da questi ritardi e da queste manchevolezze, e si parla quindi delle impugnazioni, delle alternative ai procedimenti penali, della giustizia civile, della responsabilità dei magistrati e di tanti altri temi. Ci sono anche delle proposte che sono veramente rivoluzionarie, per esempio quella di riesaminare l'esigenza di avere nel nostro paese tre magistrature distinte, quella amministrativa, quella contabile e quella ordinaria, la cui divisione, dice un esperto come Bietti, non corrisponde più alla realtà che si è venuta a creare nel nostro paese anche a causa dell'espansione dell'interventismo dei magistrati riconosciuta dallo stesso Bietti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, che comincia oggi a proporvi qualche itinerario di viaggio, magari qualche itinerario un po' curioso come quello di cui vi parlo adesso, un tour interessante, assolutamente curioso, che fu effettuato da uno dei personaggi più affascinanti a modo suo dell'Ottocento, l'anarchico Mikhail Bakunin, vissuto tra il 1814 e il 1876, che fu a lungo in Italia e ne scrisse in molti saggi, dai quali Lorenzo Pezzica ha ricavato la raccolta Viaggio in Italia, pubblicato da Eleutera, 144 pagine, 12 euro. Bakunin fu un apostolo dell'anarchia, più volte condannato a morte, prigioniero in Siberia, vissuto a lungo in esilio e ramingo, e fu in Italia dal 1864 al 1867, proprio nel nostro paese. Maturò la sua definitiva conversione alla fase socialista anarchica e anzi nel 1874 tornò in Italia, a Bologna, dalla Svizzera, dove aveva acquistato prudentemente, direi, un appezzamento di terreno e fatto costruire una bella casa. Era tornato, dicevo, per fomentare una rivoluzione che naturalmente sarebbe abortita, ma che ispirerà un bellissimo libro di Riccardo Bacchelli, Il diavolo al Ponte Lungo. In particolare Bakunin trova a Napoli una città particolarmente adatta alle sue inclinazioni politiche, che lo portano a prendere le distanze da due figure che pure erano molto note e rispettate nell'ambiente democratico, cioè Garibaldi e Mazzini, che a parere di Bakunin non sanno interpretare il nuovo clima, come spiega in queste righe. Oggi la nazione si è risvegliata, vive e vuole. Queste sterminate masse di uomini, condannati a vivere come bruti, si agitano senza sosta, emettono suoni rauchi e minacciosi, sono divorati dalla fame, lampi insanguinati di odio e rabbia sprizzano dai loro occhi. Borghesi, privilegiati, preti, burocrati e soldati, l'uragano si avvicina, il turbine sta per travolgervi, scappate! La valanga scende fatale e onnipotente, e voi ne sapete il nome, rivoluzione sociale. È questa la vera rivoluzione, e si accompagna a tre raggi di luce che sono le basi della civiltà a venire: l'ateismo, il socialismo, il federalismo. Per Bakunin l'Italia è divisa non tra ricchi e poveri, non tra monarchici e repubblicani, non tra nord e sud, ma in cinque gruppi che egli così presenta: i clericali, dal Papa all'ultima beghina, la consorteria, ovvero la grande borghesia compresa la nobiltà, la media e la piccola borghesia, gli operai delle fabbriche e delle città, i contadini. Una guida decisamente insolita a una delle mete più importanti del turismo internazionale è quello di Lauretta Colonnelli. Conosci Roma? Tutto quello che devi assolutamente sapere. Pubblicato da Edizioni Clichy, 274 pagine, 15 euro. Troviamo qui 450 domande e risposte relative che ci fanno scoprire alcuni particolari inediti della città eterna. Per esempio, vi offro questa curiosità che offriamo anche come augurio di buon lavoro al nuovo sindaco e che ci spiega il significato di un'espressione che è divenuta proverbiale in tutta Italia. Da un provvedimento preso da Ernesto Nathan, sindaco progressista che nel novembre 1907, appena eletto, decise di mettere ordine nella vita cittadina. Esaminando il bilancio comunale, si accorse che esisteva la voce frattaglie per gatti, spesa destinata al mantenimento dei felini che avrebbero dovuto difendere dai topi i documenti custoditi negli archivi capitolini. Nathan la cancellò con un tratto di penna, spiegando ai funzionari che d'ora in poi i gatti avrebbero dovuto sfamarsi con i topi. Se non li avessero trovati, la loro presenza sarebbe risultata inutile. Un altro viaggio, questo celebre, anzi leggendario, negli Stati Uniti e alle origini della cultura americana, è quello che Henry David Thoreau effettuò nel 1857. Thoreau aveva vissuto tra il 1817 e il 1862 ed è considerato uno dei maestri del pensiero libertario, della cultura ambientalista, non soltanto americano. Questo libro si intitola I boschi del Maine, pubblicato da La Vita Felice, con la traduzione di Anna Banfi, 364 pagine, 14,50 euro. Troviamo qui anche il testo in inglese, che è la cronaca postuma dell'ultimo dei tre viaggi naturalisti che vennero effettuati da Thoreau, nel quale viene di nuovo ribadita la ricerca dell'equilibrio con la natura che l'autore cercò per tutta la vita, una ricerca qui condotta assieme a un indiano che l'accompagna nella spedizione. E scendiamo in Sud America, precisamente in Argentina, con Julio Cortázar, lo scrittore argentino poi diventato francese, morto nel 1984 a Parigi. Voland ripropone un libro del 50 ma apparso postumo, si intitola L'esame, tradotto da Paola Tommasinelli, 272 pagine, 15 euro. Si parla nel libro di una notte prima dell'esame ambientato a Buenos Aires, potremmo così dire. Infatti Johan e Clara hanno una prova universitaria da sostenere il giorno dopo e decidono di passare le ore precedenti girovagando per la capitale. Sarà una notte fantastica e strana, popolata da incontri che assumono un valore quasi onirico, che danno della città in pieno clima peronista, un quadro inquieto e sfuggente che sembra prefigurare le grandi trasformazioni degli anni successivi. A un certo punto, per esempio, compare la nebbia, che assume il significato metaforico dell'approssimarsi della maggiore età. Anche il sonno diventa una vacanza da se stessi e un'invasione di funghi assume un aspetto altrettanto misterioso che diventa il simbolo delle continue misteriose manovre del potere, come spiegano queste righe. Guardi, il venditore Lopez mostrava entomologicamente un riquadro della seconda pagina di La Nación. Si avverte la popolazione che, in attesa del risultato delle analisi effettuate in questo periodo dal Ministero della Salute Pubblica, non si devono utilizzare a fini alimentari i funghi comparsi la notte scorsa in piccolissima quantità nella capitale. Mi dica lei se non è il colmo. I funghi o non poterli mangiare? Domandò Andrés sospirando. Mi riferisco al tono del comunicato. Ipocrita, signor Fava, lo chiamo io, ipocrita. Vogliono mettere una benda sugli occhi della gente, come se qualcuno pensasse di mangiarsi quelle schifezze. Parliamo adesso dell'argentino più famoso, e cioè dell'argentino Jorge Bergoglio, di cui Evangelina Imitian, vaticanista della Nazione, il più importante giornale argentino e amica della famiglia Bergoglio, pubblica la biografia nel libro Francesco, il Papa della Gente, pubblicato da Rizzoli, 304 pagine, 300 euro, tradotto da Eleonora Cadelli e Emanuela Cusimano. Troviamo nel libro la carriera del futuro Papa, ma soprattutto un itinerario ragionato nel suo pensiero e nel suo stile pastorale. Ci sono qua molte testimonianze importanti per comprendere i suoi orientamenti, per esempio quando a Lampedusa ha parlato recentemente di globalizzazione, suscitando molte riflessioni su questo tema, ha affrontato un tema di cui si era già occupato in passato e di cui si parla in questo libro. Ascoltate per esempio queste righe di un documento che Bergoglio aveva scritto nel 2007 per la conferenza generale del Consiglio Episcopale Latinoamericano, dove il futuro Papa parla appunto così della globalizzazione. In riferimento alla globalizzazione, il documento esprime la seguente analisi. Nella globalizzazione, la dinamica del mercato assolutizza facilmente l'efficacia e la produttività come valori fondanti di tutte le relazioni umane. Questa sua particolare caratteristica rende la globalizzazione un processo che favorisce le iniquità e le ingiustizie a diversi livelli. La globalizzazione, per com'è configurata attualmente, non è capace di interpretare e di reagire in funzione di valori oggettivi che vanno oltre il mercato e che costituiscono l'elemento più importante della vita umana: la verità, la giustizia, l'amore e soprattutto la dignità dei diritti di tutti, anche di coloro che vivono al margine del mercato stesso. Ed è interessante associare a questa lettura quella di un libro sull'ordine dal quale proviene Bergoglio, cioè l'ordine dei Gesuiti, di cui lo stesso Francesco è stato il primo Papa. Il libro si intitola Sabina Pavone, i Gesuiti dalle origini alla soppressione, pubblicato dalla Terza, 166 pagine, 6,90 euro. Il libro prende in considerazione il periodo tra il 1540 e il 1773, da quando Sant'Ignazio fonda l'ordine fino all'attacco che sul fine del Settecento i Gesuiti subirono in tanti paesi europei, anche cattolicissimi, attacchi dovuti soprattutto al fatto, scrive l'autrice, che si voleva un drastico ridimensionamento del potere temporale della Chiesa cattolica nel suo complesso, di cui l'ordine dei Gesuiti, il potente ordine dei Gesuiti, era considerato il simbolo. E che cosa aveva dato fastidio dei Gesuiti? Lo spiego D'Alembert, che secondo l'autrice aveva sottolineato la propensione all'intrigo e il desiderio di governare gli uomini utilizzando la religione, che aveva anche sottolineato il legame tra la capacità di unirsi per una causa comune e il successo della compagnia. Qui D'Alembert vedeva il problema principale che aveva reso così pericolosa agli occhi dell'opinione pubblica la compagnia di Gesù. E qui esaminiamo la storia, le luci, le ombre, l'influenza sul sistema educativo dell'epoca, un'influenza che fu molto importante, e l'atteggiamento nei confronti della politica, che scopriamo essere stato sempre molto empirico e pragmatico. E a questo punto il confettino. Vi propongo due libri ancora sul viaggio delle edizioni Clichy. Il primo è di Isabelle Grelet, Irene Bonassina, che è l'illustratrice, si intitola Il viaggio dell'asino, è tradotto da Tania Spagnoli, 14 euro, un bel libro per avvicinarci alla vita di una fattoria con tanti animali che assistono alla voglia di evasione che può avere anche un asino. L'altro libro è di Praline Gay Parra, illustrato da Rémi Seyard, si intitola Andiamo papà, 15 euro. Qui abbiamo l'avventura di un bimbo che riesce a farsi piccolo piccolo, forse troppo, e vivrà un'avventura quasi alla Cappuccetto Rosso. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Filippo Reggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.